started. Stava bene laggiù nel meridione, valigia di cartone, un fischio sul binare, si parte dal paese. La terra resta lì, parti e batte il cuore, la donna resta lì, parti e batte il cuore, l'amore resta lì. Nella città grande c'è un posto di lavoro, davanti a un grande cinema farai il posteggiatore. Tanto per cominciare, resta lì, tanto per cominciare, resta lì. Anche se lei, no, no, non c'è, anche se un fiore è qui, no, non c'è. E un profumo d'estate qui, non senti mai. laggiù nel meridione, ma almeno c'era sole, la nebbia non copriva la testa del paese. Il mare non ce l'hai, nella città grande il sole non ce l'hai, nella città grande il cuore resta sud. Nella città grande arriva un gran signore, butta 50 lire sul posto di lavoro, ti entra per favore, gran signore, ti entra per favore, vado via, anche se poi non mangerò, anche se poi io no, non lavorerò, no, no, non lavorerò. Che sognava e s'annoiava. Non fai più capriole sui tappeti di velluto. Ora torni a casa con le ginocchia sbucciate e con le scarpe rotte per aver preso a calci il barattolino. Non sei più quel bambino, ora corri tra la gente, la curiosità ti prende. Ora hai voglia di sapere, hai voglia di vedere. Come le stelle si contendono il cielo, milioni di domande già cercano spazio nell'anima. Thank you. Thank you. mentre sto appoggiato al muro e guardo la gente, la città, e mi sento su una ruota che va con la penna. Ho dato ai miei pensieri un colore blu, stavo per volare, cado già giù. Improvviso sul mio viso l'ironia di un sorriso, quanto spazio intorno a me, e mi sento già rinato ormai. Il sole è con me, sono nato appena oggi e spero solo che non sia già troppo tardi. No, vorrei dirti quello che prima non riuscivo a spiegare mai. Signora thank you.

vivrà. Dove troveremo libertà.